Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. E anche per oggi abbiamo finito. Grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di starci a sentire. Grazie a Walter che, oltre a gestire la console, si è avventurato dietro al microfono per parlarci di destra e sinistra. Grazie a tutti quelli che ci hanno fatto avere i loro punti di vista. E ci sentiamo pieni dell'immancabile energia tra una settimana esatta. Che il primo maggio vi sia propizio. Thank you.